Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ogni volta che una cosa nuova arriva dove ce n'era un'altra, succede sempre qualcosa di strano. È come quando in un giorno di marzo arriva il caldo che di solito c'è a maggio o a giugno e si passa da 15 a 25 gradi. Le cose nuove sono sempre difficili da gestire perché nel bene e nel male stravolgono quello che sei. Anzi, quello che sei è già quello che eri. Fortuna che poi arriva l'abitudine e pensa lei a tutto. Mi chiamo Claudio Santoro, ho 59 anni, sono nato a Milano e vivo a Lecco. Sono sposato e ho due figlie. Ho fatto il bancario per 30 anni e da 3 anni sono in prepensionamento. Per la serie Le mail fuori contesto. So che non è carino cominciare così, però comincio un po' come mi pare, quindi comincio con una mail fuori contesto, non che ci sia un contesto entro cui rimanere quando mandate una mail. A voi siete qui, @radio24.it, vale tutto ovviamente, però questa mattina io ho ricevuto questa mail e sono le mail che amo di più. Gentilissimo dottor Caccia, già è come se, già quando mi si rivolge come se fossi Barisoni, io sono già contento. Gentilissimo dottor Caccia, oltre all'emozione di quei pochi minuti di ascoltarla, mi emoziona sempre, ogni giorno, la musica in sottofondo quando legge la lettera del giorno dopo. Ora, giustamente le facce dall'altra parte del vetro sono state la mia stessa quando ho letto questa mail, salvo poi capire che la lettera del giorno dopo è semplicemente il finale, che è l'intro della puntata del giorno dopo. Potrebbe gentilmente dirmi il titolo? Ringraziandola, colgo l'occasione per salutarla e augurarle buone feste. Antonella. Antonella, io credo che avere delle ascoltatrici come lei, e le do del lei, anche se di solito do del tu, renda merito a questo mestiere. Io, diciamo, sento di avere un senso. Beh, un senso a quello che faccio, forse un po' troppo, però quando ricevo queste mail, Paolino, se mi rimetti la base, dico anche alla signora Antonella di che musica si tratta. Antonella, peraltro, per gli ascoltatori più attenti, questa non è solo il finale, è anche l'inizio, insomma, è la sigla iniziale. Questo pezzo è un pezzo di un... mica me la ricordo, Bonini. Ah, ok, è un pezzo di un musicista inglese, neozelandese, non sappiamo di dov'è, è di un musicista che si chiama Owen Pallett, il cui titolo è Scandal at the Park, at the Parkade. Niente, facevo quello che la sapeva e non la sapeva nemmeno. Tutto questo lo trovate comunque sul sito, no? Non lo trovate sul sito Radio 24, ma adesso lo scriviamo su Facebook immediatamente, ok? Antonella, questa era per te. Cosa vuol dire? Scusami, il mettente del messaggio ha chiesto una conferma di lettura, fare clic qui per inviare una conferma. Cosa vuol dire? Non ho fatto clic, no. Ah, perché in teoria se io non faccio clic lei non sa che io l'ho letta. Ho capito, queste sono le mail trabocchetto che se tu le cancelli senza averle aperte o senza aver cliccato su clicca qui, dai la sensazione di essere uno stronzo. Certo, chiaramente. Antonella, spero di averti risposto e più tardi farò anche clic esattamente qui. 349-238-6666 e anche 80024, direi. Anche 80024-0024, perché oggi si parla... Aspetta però, no, come se non l'avessi detto, perché si parla di due cose diverse oggi. La prima cosa di cui si parla è di quando è arrivato qualcosa che ha completamente stravolto le vostre abitudini, di quei cambiamenti che sembrano catastrofici, però poi ci si abitua. Avete presente le cose che sembrano impossibili da accettare, poi però alla fine si accettano sempre. Tutto quel nuovo che arriva e che stravolge in qualche modo la vostra esistenza, anche se apparentemente, e poi invece le cose si aggiustano. Quella roba lì si chiama forza dell'abitudine. Vi faccio un esempio. Piero mi scrive: uno spostamento in un'altra città, fuori dall'ormai mia Milano, per un altro lavoro, un'altra vita. In aprile al Parco delle Basiliche a Milano piangevo per la paura, tra le braccia della mia ex ragazza. Adesso, dopo 6 mesi, un lavoro pieno di soddisfazioni e una nuova ragazza, Milano non mi manca più. Sono tornato, l'ho rivista dal fuori, fredda e cinica. Vabbè, dai, non esageriamo, come forse anch'io prima di staccarmi da lei. Adesso invece Madrid mi calza a pennello e la mia vita è cambiata come non avrei mai immaginato. Una roba del genere, più o meno. Daniela, test di gravidanza positivo. Suo padre mi molla. Io sono sola e incinta, ma col tempo mi sono abituata. Sono felicissima di essere mamma. Solo all'essere single faccio un po' di fatica ad abituarmi, ma va ogni giorno meglio. Però in che senso, Daniela, va ogni giorno meglio? Nel senso che ti stai lentamente abituando ad essere single, oppure sta arrivando qualcuno che stravolge questa abitudine? Francesco, a conti fatti, mi sono abituato ad essere stato abbandonato 3 anni e mezzo fa da Satana al secolo Stefania. Sono contento, Francesco, di sapere che avete ancora un buon rapporto con la, tu e la tua ex fidanzata. 349-238-6666. Oggi però si parla anche, perché il racconto di Claudio parla esattamente di quella cosa lì, parla di fusioni aziendali. Avete presente quando la vostra azienda viene comprata da un altro? Quella roba lì, una fusione aziendale più o meno, giusto? A Radio 24 ne parliamo praticamente ogni giorno. Se vi è capitato di finire nelle mani dell'azienda concorrente, se la vostra società è stata acquisita o acquistata, che forse è la stessa roba, ma non lo so, da qualcun altro, e voi vi siete trovati stravolti nelle vostre abitudini perché cambiava il modo di vivere, l'ufficio e il lavoro tutti i giorni, 800 24 00 24, oppure vale anche il 349 238 6666. La storia di Claudio è una storia che mi ha colpito chiaramente perché racconta di come sia complicato cambiare chi si è e quello che si fa dopo 20 anni di abitudine ad un lavoro e ad un ambiente, ma anche perché parla del lavoro come se fosse una battaglia. Di solito le riunioni avevano inizio nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, e si svolgevano nella luminosa e spaziosa sala dell'area della banca, che era riuscita vittoriosa dalla guerra dell'incorporazione. Per i vincitori rappresentava una continuità che rassicurava, ovviamente, che forniva ossigeno all'ego dei proprietari della banca. Per i vinti invece era una sorta di forca caudina recarsi presso la sede di un istituto che solo fino a pochi mesi prima era stato un concorrente, sedersi lì e trovarsi di fronte ai nuovi capi. Si può dire che, avendo lavorato 30 anni, spezzerei i 30 anni in due pezzi, i primi 20 anni e gli ultimi 10. I primi 20 erano una banca che aveva una sua identità e, anche se vuoi, un certo blasone culturale, e c'era un certo tipo di approccio con la clientela, se vuoi un po' blasé. E poi la seconda parte mi sono trovato ad essere praticamente incorporato da due banche che fino al giorno prima erano mie concorrenti. In genere i nuovi capi si facevano vedere quando la sala era già quasi piena. Entravano con sorrisi smaglianti, anche se non riuscivano a camuffare del tutto la loro falsità. Quando ci guardavano, il pensiero, quello che sembrava veramente passare nelle loro teste, era: guarda un po' sto branco di bifolchi che ci siamo tirati dentro. Adesso però impareranno a lavorare e a muoversi. È finita la pacchia. Era chiaro che questi erano i pensieri scomposti che frullavano nelle loro teste, soprattutto dopo che una frettolosa investitura gli aveva conferito nuovi traguardi da raggiungere, traguardi sui quali loro si giocavano le loro carriere. Nonostante tutto, un sottile divertimento mi pervadeva quando prendevo posto e mi guardavo attorno. Strette di mano, pacche sulle spalle, battute di cui comprendevo solo in parte il significato. E poi nuovi termini, nuove gergalità impregnavano l'aria. Ai vinti era concesso di ambientarsi velocemente, di impadronirsi al più presto della nuova realtà aziendale che, guarda caso, era identica a quella dei vincitori. Cosa fosse successo negli anni precedenti era cosa che non doveva riguardare più l'oggi o il futuro. Un po' come studiare la fisica pensando che Archimede sia obsoleto. Nomi anglofoni infarcivano i discorsi, nel vano tentativo di nobilitare tecniche di vendita da mercato ambulante. Prodotti sofisticati di origine esotica rimbalzavano nella sala, e dei molti presenti solo una minima parte ne comprendevano il significato. Ma d'altra parte, che importanza aveva? L'importante era vendere, e per chetare l'ansia dell'ignaro acquirente un termine inglese funziona sempre. Un po' come quando vai dal medico e lui utilizza qualche parola astrusa di origine greca o latina per definire la tua patologia. Mi guardavo attorno e con un indefinibile piacere pregustavo il fatto che tra qualche mese questo non sarebbe più stato il mio mondo. Sapevo che era stata accolta la mia domanda di prepensionamento, di esodo, scivolo, chiamiamola come vogliamo, ecco. Quindi avevo questa sottile vena di, chiamiamola, di nascosto piacere che tra un po' quello non sarebbe stato più il mio mondo, ecco. Ogni volta che una cosa nuova arriva dove ce n'era un'altra, succede sempre qualcosa di strano. È come quando in un giorno di marzo arriva il caldo che di solito c'è a maggio, a giugno, e si passa dai 15 ai 25 gradi. E tutti noi abbiamo addosso gli abiti pesanti e ricominciamo a sudare senza capire il perché. Oppure l'umore è migliore ma senza una vera spiegazione. Le cose nuove sono sempre difficili da gestire, perché nel bene o nel male stravolgono quello che sei. Anzi, Quello che sei è già quello che eri. Fortuna che poi arriva l'abitudine e pensa a lei a tutto. Can anyone lend me 10 billion quid? Why do you look so glum? Was it something I did? I guess I got a bit carried away. If I say I'm sorry, will you give me the money? When I was free, the complete banker in my Armani. Before the anger and the inquiries, well, money makes the world go round and round and down the drain. Cibo, amore, sesso e lavoro. Se ci si guarda in giro, in fondo le cose che riempiono le giornate di uomini e donne sono queste qua. Sono le cose che interessano le persone, che le rendono attive. Sono le cose per cui si soffre, per cui si gioisce. Eppure, nonostante queste siano le cose che ci eccitano e che fanno muovere il mondo, alla fine ci si abitua a tutto. Ci si abitua al cibo, che ci piace e non ne sentiamo più il gusto. Ci si abitua all'amore e non ti scappa più la pipì tutte le volte che incontri la persona che ami per la prima volta. Ci si abitua al lavoro. Lo si fa per anni, quasi senza accorgersene. Ci si abitua al sesso anche. E la sera hai voglia di girarti di là e dormire invece che spogliare la persona che ti sta a fianco e sentire la sua pelle sulla tua. L'abitudine, secondo me, è bistrattata. Tutti la vedono male e le danno un'accezione negativa. Io penso che se non ci fosse lei la vita sarebbe molto più complicata. Il racconto di Claudio in fondo parla soprattutto di questo. Di come gli stravolgimenti creino spiazzamento e frustrazione. Perché è vero che racconta di una fusione aziendale, parla di banche che competono e poi si fondono, parla di qualcuno che vende, qualcuno che compra e in qualche modo di qualcuno che vince e di qualcuno che perde. Ma la cosa che più mi ha stupito delle sue parole è stata la delusione dovuta all'atteggiamento dei nuovi arrivati, che sono quelli che lui chiama i vincitori. Io non so nulla di fusioni aziendali, di nuovi manager che subentrano i vecchi, di regole, di gerghi nuovi. Credo però che questa cosa valga per qualsiasi cambiamento, no? Per qualsiasi novità. Quando quello che c'era prima non c'è più, o è diverso, tutto sembra più brutto. Tutto ha come un sapore indigesto. È un po' come quando compri un paio di scarpe nuove e indossandole ti ci senti scomodo perché spingono sul tallone o la pianta appoggia male. E solo dopo averle messe tutti i giorni per un mese o due ti ci senti a casa. Perché tu ti devi abituare a loro e loro a te. La forza dell'abitudine è più coriacea di altre. Mica per niente si chiama forza, perché piega qualsiasi cosa, perché la modella, la modifica. La forza dell'abitudine è così potente che spesso lascia delle tracce indelebili, anche quando quell'abitudine non la frequentiamo più. Mi ricordo di una vicina di casa che un anno dopo la morte del marito, quando saliva in auto, si ostinava a salirci dalla parte del passeggero. E solo quando aveva poi chiuso la portiera, guardava a sinistra e realizzava che suo marito, che di solito era alla guida, non c'era più. E ogni volta ricordo che si commuoveva. Ecco, ora non lo fa più, anzi ora quella macchina lì l'ha venduta, va in giro a piedi o con i mezzi. Si è costruita una nuova abitudine che ha soppiantato quella vecchia. Perché anche se arrivano dei nuovi capi in azienda, anche se al lavoro la tua routine viene stravolta, in fondo c'è sempre una nuova abitudine pronta a prenderne il posto. E l'abitudine è un po' come l'acqua tiepida, non è tonificante come quella fredda e non è rilassante come quella calda, ma almeno ci puoi fare un bagno. I don't know how I'm gonna do it, I only know I'm gonna try. I don't know how I'm gonna do it, I only know I'm gonna try. I don't know how I'm gonna do it, I only know I'm gonna try. Non è in realtà solo di forza dell'abitudine che si parla in questo racconto, nel senso che sì, la storia di Claudio è quella di una novità che entra drasticamente nella nostra vita, nel suo caso nella sua vita professionale, quasi a gamba tesa ti obbliga a cambiare tutte le abitudini. Si parla però anche di una specie di guerra in corso tra due aziende, in questo caso credo siano due banche, lo chiedo direttamente a Claudio. Pronto Claudio? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Non c'è male, tu? Io benone. Dove ti trovi adesso, Claudio? Dove sei? Io abito a Lecco. E quindi sei a casa in questo momento? Sono a casa, esatto. Perché tu, dopo, alla fine di questa storia, lo dicevi anche prima, sei andato in prepensionamento, giusto? Sì, chiamalo scivolo, chiamalo esodo, comunque prepensionamento. Esatto. Che significa che tu hai 59 anni, ok? Io ho 59 anni. Quindi quanto ti mancava in realtà per la pensione? Circa 4 anni. Ma quindi nel momento in cui raggiungi la data, diciamo quella che era ufficiale della tua pensione, sì. La pensione che hai è quella che avresti maturato comunque andando a lavorare in quei 4 anni, oppure la pensione diciamo che tu... Che... Nel periodo in cui tu sei nell'esodo ci perdi, diciamo, qualche cosa, però è il prezzo della libertà. Sì, sì, guarda, e tra l'altro hai usato due parole che sembrano veramente epiche, esodo e libertà. Esatto. Mi pare che tu l'abbia veramente vissuta questo desiderio di libertà dal tuo racconto, giusto? Sì, insieme a migliaia di colleghi. Cioè a un certo punto non ce l'hai proprio più fatta. Raccontami di questa questione, no? Che io quando ho letto la tua storia ho proprio immaginato questa cosa, al di là delle lotte intestine che chiaramente vengono fuori dal tuo racconto e che probabilmente sono spesso appartengono a diversi ambienti di lavoro, ma questa cosa di dover cambiare drasticamente le proprie abitudini mi è sembrata una cosa che è pesata moltissimo a te e probabilmente ai tuoi colleghi, correggimi se sbaglio. Ma guarda, cambiare le abitudini tutto sommato è il meno dei problemi, perché tutto sommato anche se il bancario ha questa nomea di persona abbastanza rigida, in realtà siamo stati abituati a diventare flessibili perché le esigenze, il mercato ce lo imponevano. Più che altro è che queste novità venivano calate dall'alto senza essere minimamente condivise. Questo era quello che dava più che altro fastidio. Ecco. Certo, sì. Chiaramente. Senti, tu hai una famiglia, hai dei figli? Sono sposato e ho due figlie femmine. Due figlie femmine? Uno di 16 anni. Quindi, cioè, sei unico uomo in casa. Come va con essere 3 contro 1? Diciamo che ogni tanto devo fare degli esercizi yoga per chiudermi in una bolla tutta mia. Cosa fanno loro nella vita? Mia moglie è casalinga perché una parte è una colpa mia, perché nella mia prima parte di carriera io ero soggetto a moltissimi trasferimenti, quindi io ho cambiato circa 20 filiali, che ti devo dire, da Taranto a Ventimiglia, da Pordenone a Reggio Calabria, quindi questa cavolo, povera ragazza 20? Che ho sposato. Sì. Sono tante 20, in quanti anni scusami? La parte iniziale soprattutto fa conto nei primi dieci anni, wow, poi invece... dopo... Sono arrivato a Lecco 22 anni fa. E invece le figlie, vabbè, studieranno, immagino? Le figlie, sì, si sentono lecchesi perché sono nate a Lecco. E io in realtà sono per metà siciliano, perché mio padre era siciliano e mia madre era lombarda. Dimmi qual è invece la tua abitudine più dura a morire? Non quella sul posto di lavoro, non quella che so io a casa, oppure legata a un'attività che tu fai. Cioè una cosa senza la quale faresti veramente fatica a ordinare la tua giornata e la tua esistenza. Guarda, leggere il giornale, il quotidiano. Leggere il quotidiano è una cosa che fai quando? Cioè nel senso che hai uno spazio e hai un tempo ben preciso per farlo? Guarda, questo qui è sintomatico anche del discorso della fusione che dicevamo prima. Sì. Per esempio nella mia banca di origine, leggere il quotidiano, ovviamente sto parlando del Sole 24 Ore, non perché sono a Radio 24, sì. È chiaro. Non no, certo, figuriamoci. Piano. Anche se fossi a Radio Capital faresti lo stesso, giusto? Non parleresti di Repubblica in quel caso. No, perché in realtà in banca il Sole 24 Ore è uno strumento di lavoro. Quindi iniziare la giornata nella mia banca d'origine leggendo Sole 24 Ore o se vuoi il quotidiano era una cosa o quasi obbligatoria. Immagino. Secondo scorcio di carriera invece, per dirti, il salto culturale, sembrava quasi che tu stessi perdendo tempo. Ho capito, senti, invece poi ti saluto Claudio, com'è la nuova vita? Nel senso che immagino che quando uno sia in, vabbè, pre-pensionamento, comunque in pensionamento, no? Che vada in pensione, veramente cambino completamente le abitudini e quindi ci si debba costruire una vita praticamente nuova. Tu hai già immaginato cosa fare, cosa farai o lo stai già facendo? Parlo veramente dal giardinaggio al collezionismo. Guarda Matteo, è una grandissima opportunità. Poter gestire il proprio tempo, la propria vita, e all'inizio può anche fare spavento. Sentivo anche qualche collega appunto che era quasi terrorizzato da questa grande opportunità. In realtà è veramente una cosa molto bella. Io per esempio l'anno scorso ho coronato un sogno che era quello di percorrere il Cammino di Santiago di Compostela da Saint-Jean a Piedeport fino a Santiago, e sono stato via 35 giorni per percorrere 800 chilometri, a piedi, cosa che non avrei mai potuto fare prima. Claudio, senti, io ti ringrazio tantissimo per il racconto, la telefonata, e ti faccio in bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo, grazie. Crepi. Ciao, grazie Claudio. Ciao. Voi siete qui. Ogni puntata che sentite, ogni storia che sentite raccontata, oltre alla fotografia che fino a venerdì avete visto del protagonista di quella storia, da lunedì, che si trova sempre sulla mappa del sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui, da lunedì ha un'illustrazione. È un'illustrazione che è fatta da uno studente di una scuola di Milano che si chiama Yed e che racconta a modo suo la storia del giorno. La storia di questa fusione di oggi è illustrata da Cristiana Messin, trovate, ripeto, il disegno sulla pagina voi di Radio 24, Voi siete qui. Vi chiederei di andare a vederla per darmi una mano, perché non capisco, ci sono dei pinguini in questa illustrazione, che però forse sono più che altro dei mostri, che arrivano con delle valigette in mano, immagino che siano i cattivi, quelli, i vincitori. E poi c'è lui, ovviamente, c'è il protagonista della nostra storia, che ha una cravatta rossa e però ha una collana che non è proprio, è di Lecco questo signore, non credo che un signore di Lecco abbia delle collane così tamarre addosso. Il tutto incastrato in un orologio che scandisce il tempo. Ogni giorno questa illustrazione la trovate, non questa qua nella fattispecie, ma l'illustrazione della giornata, lo trovate sul sito di Radio 24, sempre lì, sempre alla pagina di Voi siete qui. 800240024, se da poco, se in questi giorni o se negli ultimi anni, no, un range di tempo ristrettissimo direi, se da poco o negli ultimi anni avete dovuto cambiare abitudini al lavoro perché c'è stata proprio una di quelle fusioni in cui all'improvviso i vostri capi non erano più i vostri capi, ce n'erano di nuovi che non conoscevate e vi obbligavano a fare cose che non eravate abituati a fare, come scusate, l'abitudine del casual Friday. Questa è una cosa che mi ha veramente spiazzato, non essendo addentro a queste cose. Sono andato a un addio al celibato questo fine settimana del mio amico Bazooka, che si sposa per la seconda volta e che sia l'ultima anche magari. Tra l'altro ho scritto su Twitter un sacco di vaccate che vorrei cancellare, perché dopo che Twitter funziona così, che tu lo scrivi e poi devi cancellare, perché dopo 2 ore sembrano veramente delle boiate. Tant'è, è arrivato questo mio amico, era venerdì, ed era stranamente, lui lavora in una multinazionale farmaceutica, è sempre elegantissimo, e stranamente era vestito con dei jeans e un maglione. Gli ho detto, siamo belli casual, e lui mi ha guardato come se io fosse un imbecille che non lo sapeva, ma ha detto, beh, casual Friday. Io sono sicuro che tutti gli ascoltatori di Radio 24 sanno che cos'è il casual Friday. Per quei pochi che non lo sanno, ad esempio mia mamma, che all'ascolto e lavorava in un'azienda che non aveva il casual Friday, e il casual Friday è una regola per cui il venerdì tu puoi andare vestito rilassato, cioè non in giacca e cravatta e abito, ma con dei jeans e una camicia o una maglietta. È una regola per rompere le regole della serie, rompete le righe però tenetele un pochettino più storte. Insomma, se avete fatto parte di una di quelle fusioni, a vostra insaputa ovviamente, cioè semplicemente vi siete trovati nell'occhio del ciclone, 800240024. Doriana invece mi ha scritto sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui, dove peraltro ringrazio Andrea Godano che ha linkato il video di Owen Pallet, per cui Antonella che mi ha scritto saprà di che canzone si tratta, quella che voleva sapere. Doriana mi scrive: una sera ho deciso di non tornare più a casa. Avevo 22 anni, una brillante carriera universitaria, ero libera di muovermi come volevo, ho voluto andarmene dalla casa dei miei, ho scelto di lasciare l'università per restare nel paesello con il mio gelosissimo ragazzo. E già questa è una storia che è arrivata fino a qui, mi sta struggendo, anche perché una storia così non può che finire male ovviamente. Ragazzo che ho lasciato dopo 2 mesi, peraltro, senza però riuscire a mollare l'appartamento e i 2 lavori che avevo per vivere. I miei non mi parlavano. È stata durissima rivoltare la mia vita come un calzino, ma oggi che la ruota girando mi ha portato in altre lidi, di fronte a nuovi ostacoli e cambiamenti, ho la certezza di potercela fare. Olè Doriana, un po' di speranza per il futuro. Chiara: alla fine delle medie ho lasciato le scuole del paese per iniziare il liceo in città. Cominciava una nuova vita, ma in classe non ci sarebbe più stata la mia migliore amica di sempre, Alessia. Che carino. Ed anche questa è un po' struggente come storia. Rimaneva al paese, è stata la prima vera separazione della mia vita. Ero spaesata, eccetera, eccetera. E invece, dopo giorno, ho iniziato ad abituarmi a capire che l'inizio di una nuova vita non significa necessariamente la fine di quella precedente. E più o meno era quello che cercavamo di dire anche con il racconto di oggi, dei cambiamenti, che alla fine la forza dell'abitudine vince su tutto. Vorrei leggervi invece una cosa che ha a che fare più con il lavoro che non con, con la forza dell'abitudine. Luciano Bianciardi è uno scrittore di origini toscane che ha, in età molto piuttosto giovane, o forse neanche, attorno ai 30 anni aveva quando è venuto a Milano, mi pare. Ha lasciato questo paesello della Toscana, Grosseto, non è mica tanto paesello, ha lasciato Grosseto dove aveva una moglie e forse un figlio anche, Tiziano. Aveva una moglie e un figlio per venire a lavorare a Milano, a lavorare nella grande industria editoriale milanese in una, per un editore di Milano che, vabbè, che era Feltrinelli. Era il 1960 quando è successo tutto questo, e lui racconta in questo romanzo che si chiama La vita agra, la sua vita da espatriato, da nuovo arrivato a Milano, una vita chiaramente interessante perché possa essere raccontata. Era una sorta di nuova classe creativa, ma proprio nuova, nel senso che fino a qualche tempo prima non esisteva in quel periodo storico in questo paese. E questo pezzo è un pezzo magnifico perché racconta proprio di quell'impalpabilità che hanno certi lavori ai limiti dell'evanescenza. E mi licenziarono soltanto per via di questo fatto che strascico i piedi. Mi muovo piano, mi guardo attorno anche quando non è indispensabile. Nel nostro mestiere invece occorre staccarli bene da terra, i piedi, e ribatterli sull'impiantito sonoramente. Bisogna muoversi, scarpinare, scattare, fare polvere, una nube di polvere possibilmente, e poi nascondercisi dentro. Nei nostri mestieri non ci sono metri di valutazione quantitativa. Come si misura la bravura di un prete, o di un pubblicitario, o di un public relation manager? Costoro né producono dal nulla, né trasformano. Non sono né primari, né secondari. Terziari sono, anzi, oserei dire addirittura quartari. E come si fa a calcolare la quantità di fede, di desiderio di acquisto, di simpatia che costoro saranno riusciti a far sorgere? No, non abbiamo altro metro se non la capacità di ciascuno di restare a galla e di salire più su, insomma, di diventare vescovo. In altre parole, a chi scelga una professione terziaria o quartaria occorrono doti e attitudini di tipo politico. E la politica, come tutti sanno, ha cessato da molto tempo di essere scienza del buon governo. È invece diventata arte della conquista e della conservazione del potere. Così la bontà di un uomo politico non si misura sul bene che egli riesce a fare agli altri, ma sulla rapidità con cui arriva al vertice e sul tempo che vi si mantiene. E la lotta politica, cioè la lotta per la conquista e la conservazione del potere, non è ormai più fra Stato e Stato, tra nazione e nazione, ma interna allo Stato, interna alla fazione. Allo stesso modo, nelle professioni terziarie e in quelle quartarie, non esistendo alcuna visibile produzione di beni che funga da metro, il criterio sarà quello. Sei diventato vescovo? No? Allora vatti a riporre. La concorrenza, ma che ti importa della concorrenza? L'importante è fare le scarpe al capo ufficio, al collega, a chi ti lavora accanto. Il metodo del successo consiste in larga misura nel sollevamento della polvere. Niente paura, di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Andare, camminare, lavorare. I prepotenti tutti chiusi a chiave. I cani con i cani nei canini, le rose sui balconi, i gatti nei cortini. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Dai, lavorare. C'è qualcuno che mi dice che non si chiama Casual Friday, ma si chiama Freaky Friday. Cos'è il Freaky Friday? Boh. Ciao, si chiama Informal Day. Andrea da Livorno dice: noi a Livorno ci abbiamo la Week Casual. Che non capisco cosa. Ah, nel senso che tutta la settimana vale tutto, ok. 349-238-6666. Vabbè, Marco scrive che con la nuova riforma in pensione l'ascoltatore di prima, che Claudio, ci andrà a 63 anni. Io spero di no per lui. E poi qualcuno che è sempre polemico, a proposito del ragazzo che diceva che si è abituato ad andarsene da Milano perché a Madrid ci sta benissimo, dice: se invece che a Madrid l'avessero mandato a Nicotera, Milano gli mancherebbe di più. Però ognuno ha già le proprie frustrazioni. Non è che dobbiamo buttarle addosso anche agli anni, poi magari agli altri, poi magari invece Nicotera è un gran posto. Però Claudio, andiamo subito a Claudio da Bergamo, perché Claudio da Bergamo ha subito un sacco di fusioni. Pronto Claudio? Sì, buongiorno. Buongiorno, Caccia. Come allora, stai? Io ho sentito all'inizio la trasmissione e veniva da ridere perché in effetti viene sempre vissuta come una tragedia. Nel mio caso mi ha dato una grandissima libertà di azione. Claudio, mi dici, Tanti cambi. Perché multinazionale lavori? Cioè, che tipo di lavoro fai? Io lavoro in una multinazionale americana. Sempre americane, chimica, sono, credi. Ma chimica, ci sono multinazionali, sì, tipo svedesi? Beh sì, è ovvio che ci sono. Anche svedesi, sono peggiori delle americane. Perché, Claudio? Perché adesso ci sono più soldi che avevano prima i grandi paesi nordici, che li stanno comprando tutti i cinesi, ma, o anche, senti, gli italiani. Ma scusami, quando come uno che ci lavora, come viene informato del fatto che tra due giorni ci arrivano altri capi? Nel mio caso era proprio da dire, perché è successo che il sabato io lavoravo in una multinazionale, avevo una sede vicino a Milano, che facevano l'apertura delle aziende, io tutto bello orgoglioso, lunedì mattina, la domenica arrivano a me e dice alle 2 del pomeriggio di lunedì trovarsi subito su in Inghilterra. E quindi vuol dire che succede qualcosa, perché sono le 8 di mattina in America. Ah, quindi, ok. Quindi vuol dire che ti danno l'annuncio, quindi arrivi su, 20 da tutta Europa, ti dicono niente, vendiamo la vostra divisione. Il giorno dopo arrivano quelli della nuova azienda. Ma tu incazzato nero? Nero, però di fatto ero l'unico che alla fine tutti sorridevano, che avevo ancora il posto dopo. Senti, l'ultima cosa, Claudio, poi ti devo salutare, ma cosa cambia di fatto nella tua vita con capi diversi? Nulla, perché quando c'è l'esperienza, cioè, dipende che tipo di lavoro fa uno, perché se uno non ha un'esperienza di campo, l'unica difficoltà adesso a 55 anni suonati, che prima era limitato ad arrivare in Grecia, poi dopo si passa in Turchia, poi Medio Oriente, poi Pakistan, cioè ci si allarga sempre più in là per cercare nuovi spazi. Certo, sempre più ai margini dell'impero. Claudio, grazie mille, buona giornata. Niente. Ciao, alla prossima. Che bello, Claudio mi ha detto buongiorno caccia. Mi ha lasciato veramente spiazzato per i primi 15 secondi. Devo salutare, cioè questo ciao con le mani è che devo salutare. Allora grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. La puntata di oggi era la storia di Claudio, parlava di forze dell'abitudine. Quella di domani invece è la storia di Maria e parla della cattiveria delle donne. Guardati, hai la pancia gonfia, le gambe gonfie. Grazie, se no perché venivo da te vorrei sibilarle. Però l'umiliazione ha il sopravvento. E allora abbozzo una scusa. No, sai, è che domenica c'è stato il compleanno di mia zia, è un gran pranzo, hanno servito anche l'aperitivo. Sai com'è?